Ecco il vecchio detto, trovato nel libro del mago. Si propaga nell'aria, con vibrazioni possenti, rompe l'incanto delle sirene e libera le menti. Opposto al segnale della sorgente armonica, ne sovrasta l'energia con emissione fonica. Prodotto dal tratto vocale, in rapida vibrazione, è un picco acustico di massima oscillazione. A cosa si riferisce il detto?